piace tanto ascoltare musica mentre faccio jogging. Mi piace tanto anche ascoltare musica mentre vado in bici. Ascolto musica del mio tempo, della mia generazione. Rimango spesso ad ascoltare musica seduto sul divano. Ascolto inoltre della buona musica mentre modello un vaso da fiori pieno di mille colori. Colori del mio tempo denso avvolto da una densa nebbia che si addensa nello spazio attorno a me, attorno al mio corpo. Ascolto molta musica mentre cucino il pranzo e continuo ad ascoltarla fino a che non ho mangiato anche l'ultimo avanzo. L'avanzo del pranzo. In pratica io ascolto musica mentre faccio qualsiasi cosa, ma son turbato da un grave fatto che ha dell'inquietante. Davvero, io sono molto sincero. Se ci pensi bene, è impossibile ascoltare musica mentre stai ascoltando altra musica. Lo so, è un fatto terribile al quale non c'è soluzione, nemmeno attorno a me, attorno al mio corpo. Non riesco ad ascoltare ascoltando. Non puoi ascoltare ascoltando. Non puoi ascoltare ascoltando. Non riesco ad ascoltare ascoltando. Non puoi ascoltare ascoltando. Non riesco ad ascoltare ascoltando.